La cosa simpatica è che io entro sempre quando c'è questo batterista che io vorrei far sentire, che prima o poi vi dirò chi è. Però da come suona con Guido potremmo anche indovinare chi potrebbe essere. Difficile, molto difficile. Benvenuti nella stanza del nonno, entrate piano perché si sta alzando e quindi non vorrei così traumatizzare il suo risveglio. Quindi se sveglia a quest'ora che devo fare? Siamo alle 18:10. 10 minuti di musica abbiamo già perduto. Bam! Peccato. Però... però siamo qui e possiamo già partire con il brano che viene dopo, che partirà tra un minuto e qualcosa, che mi serve per preparare... Allora, oggi io ho pensato, perché ogni tanto penso, faccio un programma di musiche, di canzoncine d'amore. E ho cominciato a metterne insieme 2, 3, 4, 5 che mi venivano in mente, però... musicalmente non mi svegliavano, anzi mi addormentavano un bel po'. Quindi all'ultimo momento ho cambiato completamente programma e al punto che adesso non so più che cosa volevo fare. Quindi quello che verrà non ha importanza. Dopo il Chicago, dopo tutta la musica che ha fatto Guido, che ho sentito in parte, e quindi in qualche modo ci faremo ispirare, e perché no? Siccome l'altro giorno Max mi ha detto che bello, ho sentito lo scricchiolio del vinile, che te sei mangiato? Così si dice sempre, che te sei mangiato quando non parli? Carciofi no. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano da lontano, perché essendo sul web possiamo essere ascoltati veramente da quasi mezzo mondo, se uno volesse. No? Sì? No? Sì? No? Non lo so. Bah, sì, forse sì. Ma eccolo! Babaci, canta il ritornello. Babaci, va tra terra e cielo. Babaci, ritma col suo dolce suono. La chitarra un motivetto di canzone. Si sente lontano e poi ti passa vicino. Ti sembra col vento accarezzare. Si può far del ritmo con la tromba e col piano. È facile il tono se vuoi cantare. Babaci, canta il ritornello. Babaci, va tra terra e cielo. Babaci, ritma col suo dolce suono. La chitarra un motivetto di canzone. Si sente lontano e poi ti passa vicino. Ti sembra col vento accarezzare. Si può far del ritmo con la tromba e col piano. È facile il tono se vuoi cantare. Quello che voglio sapere è da Guido e dagli altri, se vi ho spiazzati. Se ve l'aspettavate Natalino 8. Sì, da me? A mappe. Babaci, Babbaci Natalino Otto con il suo complesso, un disco del 1957, se non vado errato. E beh, a questo punto, visto che mi avete provocato, io magno, no? Alla rovescia, come dice il buon Alberto Sordi. Niente visone, eh? Niente visone. Per questa stagione t'ho comperato ieri un cincillà con 6 o 7 stole di Renard, 2 anelli con brillanti e pure la Packard. Niente visone, neppur d'occasione, un panfilo comprato sol per te. La villa sul Tiguglio fronte al mar, ma che cosa ancor ti debbo donar? Ma pensa pure a me, a ciò che devo fare. Bisogna un pochettino risparmiare, a Cuba per svernare, al Cairo a riposare, e a caccia d'elefanti devo andare. E quindi niente visone per questa stagione, se non sarò costretto a lavorare. Alzarmi a mezzogiorno, penso un po', che razza di fatica farò. A ciò che devo fare, bisogna un pochettino risparmiare. A Cuba per svernare, al Cairo a riposare, e a caccia d'elefanti devo andare. E quindi niente visone per questa stagione, se no sarò costretto a lavorare. Alzarmi a mezzogiorno, penso un po', che razza di fatica farò. Sì, sì. Ma poi mi son svegliato e triste ho constatato che sono del catasto un povero impiegato. Quindi, cara, niente viso, niente viso, niente viso, no. Niente viso, no, no, no, no. Fred Buscaglione con un gruppetto di musicisti straordinari. Un giorno vi dirò anche il nome di queste persone. Bella. Gli Asternovas. Appollaiata su un alto sgabello. Questa è una canzone che mi piaceva moltissimo. Un grande tubo di cristallo. Sofisticata. E beve whisky scozzese, dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. E lei, la donna che mi piace tanto, sofisticata e un po' trassognata. E lei, uscita dalla copertina d'un rotocalco per la reclame del borotalco, il nero profumo d'un alfa aspira con voluttà da un lungo bocchino di giada ereditato da papà. E lei che ondeggia su quei tacchi a spillo, sofisticata, lei mi piace perché quando si sveglia la mattina mi sembra una bambina. E lei, la donna che piace a me. E lei, che ondeggia su quei tacchi a spillo, sofisticata, lei mi piace perché quando si sveglia la mattina mi sembra una bambina. E lei, la donna che piace a me. E lei. Bella! Fred Buscaglione con gli Asternovas. Ma io ho capito che noi siamo gente un po' così. Sì, non è mai prevedibile quello che facciamo, soprattutto perché dei dischi ne abbiamo veramente tanti. E quindi? Ma senti questo chi è? Aldo Fabrizi ci ricorda da Rugantino che stiamo messi male, ma stiamo sempre a Roma. Come dire, chi cercò di fare il padrone in quel posto se la prese perché, ma lo dice lui. C'è un papa del Brasile che va in giro a più riprese. C'è un governo buono e caro che ci aiuta per le scese. E c'è qualche cardinale che di notte va in borghese. Chi se sentono de casa, tanto il turco che l'inglese. Chi cercò de fa il padrone, in quel posto se la prese. Perché a Roma siamo gente buona, semplice e cortese. Che te mannen a fa fotte 10.000 volte al mese. Erano parecchi anni fa quando Rugantino debuttò a Roma negli anni 60, ma insomma però qualche cosa la raccontavano già gli scrittori dell'epoca, Armando Trovajoli come musicista. Questa canzone invece io non l'avevo scelta. Perché sei entrata, canzone mia? No, no, no. Essendola io non scelta, e eccola. Eh sì, è quello che volevo dire prima. Noi qui siamo un po' gente strana, no? Direi anche gente matta, si può dire? Si può dire gente matta? Si può dire gente matta. E questa è Raffaella Carrà, addirittura, che è ormai innominabile, nella commedia musicale di Carinè e Giovannini che si chiamava Ciao Rudy, con Marcello Mastroianni come protagonista, poi... Eccolo. Poi il protagonista diventò Alberto Lionello. Grazie ragazzi, vado a fare l'agricoltore, ormai ho proprio deciso. Tu sei matto e per questo il tuo posto qui non tutta gente matta come te. Gente matta, siamo tutti gente matta che si pitta, si infarina, si imbelletta, si paglietta, si imparrucca, si infagotta, biroetta, canta, recita, sgambetta, gente. Ma sì, gente matta. Matta. Gente matta, che si usa e s'arrabatta. Che traghetta, dall'amleco all'operetta. Che sculetta, tanto sto alla gavotta. Soddisfatta, di un panino il nome in ditta. Thank you. evidente che qui siamo nel pieno di un balletto. L'orchestra è quella di Armando Trovajoli. E qui al banjo c'è qualcuno appassionato di jazz. Carlo Loffredo. Ricordo benissimo che quando ero piccolo mi mettevo a ballare in casa con una bombetta e cercavo così di mimare attraverso la musica i passi che potevano essere dei ballerini di questa bellissima commedia musicale, della quale sentiamo l'introduzione. L'introduzione è un brano molto raro, perché è chiaro che questa edizione è stata rimasterizzata in stereofonia, però questa edizione qui non c'è nella rimasterizzazione. Questo è l'LP originale di quando uscì in mono, una registrazione mono piuttosto brillante, piuttosto bella, mentre nella riedizione forse è stato usato un altro take. Ciao Rudy, e noi aspettiamo le notizie di Popolare Network, e intanto potete telefonare al 3791 880 880, più che telefonare mandare messaggi, se ne avete voglia. Questa è La Stanza del Nonno, io sono Edith, e questa è Radio Centro Idea Digital Network. Sto digital, non proprio niente, niente. Oggi ti sei mangiato qualche cosa, non si dice. E allora questa introduzione di Ciao Rudy, una commedia musicale degli anni 60, ma come suonavano i musicisti italiani all'epoca nei teatri, eh? E come recitavano gli attori? Il brano precedente, Gente Matta, è, naturalmente, era dedicato a tutti i miei amici attori. E questa a tutti voi. Un pianista straordinario che è Armando Trovajoli, un pezzo di jazz che evoca dei balletti. Ciao Rudy. Thank you. Digital Network. DAB è online. Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a K.O. Li conto, son sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci. Che cotte! Ragazzi, che notte quella notte, ma... Non so da quanto tempo non si ascoltava Fred Buscaglione, e dopo così un notiziario ci sta Fred Buscaglione. Dice, che c'entra? Ma c'entra, c'entra in qualche modo, c'entra. Perché non c'entra? Ma perché non parlare ancora di un così, di un incontro, di una notte, di quella notte? Allora, diciamo che ci sono molte canzoni che parlano di incontri. C'è una canzone in particolare che, insomma, parla del fatto che, insomma, non posso fare a meno di rivederti, di rivederla. E, con l'occasione, ascoltando questa canzone qualche tempo fa, mi sono innamorato del chitarrista che introduce questo brano che andremo ad ascoltare tra poco. E mi piacque tanto questa introduzione. E purtroppo, poco dopo, seppi che il chitarrista non c'era più. Beh, io ho provato un dolore profondo perché avevo appena scoperto questo musicista, mi ero appena innamorato del suo modo di suonare e improvvisamente ho saputo e ho scoperto che non c'era più. Quindi pensate, certe volte nella musica, no? Si incontra, si rincontrano musicisti che, gruppi, come in questo caso che avevo incontrato ai loro inizi, il gruppo è quello degli Avion Travel, avevo incontrato ai loro inizi quando uscì il loro primo disco, che era un extended play. E niente, poi li ho ritrovati, rincontrati quando sono diventati piccola orchestra Avion Travel, e adesso vi faccio ascoltare un brano che mi ha particolarmente affascinato e si chiama Aria di te. Io posso mandarlo senza così, tu come funziona adesso? Insegnami. Vado? Così? Ok, vado, così. Ecco, è partito? No. Son preso un'imbarcata, no, per vedi che non parte. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, non parte, non parte, non parte, non parte. Ragazzi, qui dici di pigiare qua. Vabbè, intanto lui ha finito, quindi dovrebbe partire da solo. Questo era Fred Buscaglione e questi dovrebbero essere, anzi sono, gli Avion Travel. Sentite che introduzione straordinaria. la voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sarà puntuale. Mi compro il giornale e mi siedo ad aspettare. E l'aria sorprende, sorprende i miei piani mandandoli all'aria. All'aria di te che mi sorprende, maldestra, maldestra la mia previsione di farti sorpresa d'amore. Mi prendi di nuovo come mi trovo preso dall'aria di te. Aria che mi consola senza parola che non sia tua. Ah, sorpreso, sorpreso mi sento preteso dalla voglia di averti di nuovo. Modesto progetto d'amore diletto che non so cucinare, mi lascio mangiare sentendo l'odore. E l'aria conquista, conquista e sbaraglia il mio desiderio. Nato e taciuto dall'aria di te che mi passi di sopra sapendomi tutto nell'aria di te. Dall'aria di te, aria che mi consola senza parola che non sia tua. Radio Centro Idea, gli Avion Travel, anzi la piccola orchestra Avion Travel. Fausto Mesolella era il chitarrista straordinario dell'introduzione con la sua rossa. Beppe Servillo, attore, cantante, fantasista, che gruppo. Aria di te. Sorpresa d'amore. Ah. Molesta, molesta l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio. Piccola orchestra, Avion Travel, Radio Centro Idea, Digital Network, edita il microfono con voi, da Masana svegliata un attimo, eh? No? Allora ritorniamo giù, ritorniamo con la voce calda. Ah, questa ti piace? Ma mica me l'avevi detto, però. In ogni appassionato di musica c'è qualcosa che non è non è mai entrato a far parte dei tuoi dischi, dei tuoi ascolti, no? E improvvisamente entri in un negozio di strumenti di hi-fi e senti nella sala accanto qualcuno che sta cantando, no? E ti sembra talmente così bello, così preciso che sembra proprio qualcuno che sta di là, che sta suonando dal vivo. Chiaramente c'erano delle casse straordinarie, un'amplificazione stupenda, molto costosa, non per le mie tasche. Però c'era anche un musicista che non avevo mai sentito. Un cantautore, un ragazzo riccioluto e baffuto, si dice che facesse il ferroviere una volta, e poi si mise a fare il cantautore, tra l'altro con delle sonorità che possono assomigliare a quelle tra Paolo Conte e Ivano Fossati. Però c'è la poesia che è diversa, la poetica, e questa canzone mi piace abbastanza. Gian Maria Testa, Dietro la tasca di un qualunque mattino. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti saluterei e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei. Gian Maria Testa, Dentro la tasca di un qualunque mattino, poesia, insomma, poesia in musica, devo dire straordinaria. Poi l'incisione è molto bella e poi il suo tocco sulla chitarra è piacevole. E quando si scopre un musicista che di sicuro io sono già tanti anni che suona, che sta sulla breccia, diventa una novità, diventa qualcosa che ascolti per la prima volta e quindi è una scoperta. Come può succedere per voi ascoltando questa trasmissione in questo momento? Questa è La Stanza del Nonno a Radio Centro Idea. Io sono Edith e quest'estate mi sono imbattuto in una signora vista da lontano, non l'avevo riconosciuta, poi dopo ho capito, ha cominciato a cantare, ha detto no, vado via, no, questa sicuramente sarà una cosa pallosa, e invece poi ho capito chi era e ho capito che cosa cantava, e non era pallosa, non è stata pallosa proprio per niente.

per tutta la violenza che scende nelle case. Dai cieli crocefissi d'antenne di TV, quando non è di turno, fra Cirio e Bel Paese, il Papa che consiglia: votate per Gesù. Per l'urlo del pallone che vomita la radio, coprendo altre urla nei vostri mattatoi, prima che ci stendiate sull'erba di uno stadio, signori presidenti. Grazie da tutti noi. E bravi per le belle centrali nucleari, che tutti già paghiamo e che nessuno vuole, e che circonderete con mille militari finché non metterete un contatore al sole. Bravi per la giustizia che se non tace giace, per la rivoluzione che ha i piedi gonfi e siede, e per aver ridotto la libertà e la pace a tristi prostitute che fanno il marciapiede. Bravi per le colombe costrette a fare i falchi, perché vendete armi al meglio compratore, e per i vostri amori imposti ai rotocalchi, perché la gente creda che voi ci avete un cuore. Io vi ringrazio ancora e me ne vado adesso. La musica era bella e le parole no, ma il mondo è bello e voi ne avete fatto un cesso. E finché ci sarete, così io canterò. Herbert Pagani, da un album che si chiamava Palcoscenico, che potrete trovare chissà dove, forse nelle vostre discotecherie di casa. Adesso basta con la riflessione, un attimo, abbiamo pensato, abbiamo riflettuto, adesso ascoltiamo un brano un po' più, un po' più leggero, il quale però, come prima, non vuole entrare. Perché mi dice questo? Perché probabilmente ho intruppato qualcosa. E allora, no? Mi dice qualcosa che non vuole entrare. Vabbè, io, scusate, ogni tanto vado un po' in tilt con questo computer. Non siamo ancora... no, proprio mi dice no. Prova con la canzone dopo, che va bene lo stesso. Vediamo un po'. Sì, c'è. Cioè.

Smith. A qualcuno in studio piace molto, soprattutto la zona, è un disco inciso molto bene, è un disco del 2007, si chiama 12, è il dodicesimo album di Patti Smith e tutti i brani sono veramente straordinari perché sono incisi da un gruppo pazzesco di musicisti e anche la qualità sonora dei brani è molto bella. Però mi è venuto in mente che alcuni italiani avevano registrato un brano che ci assomigliava un po'. No, eh? Per niente, dici? Forse mi sbaglio? Questi erano Loi e Alto Mare? Non è uguale la canzone? Quattro giorni insieme? No, no, eh? No. Ci aspetta, sentiamo. Checco Loi e Massimo Alto Mare. Mamma mia, che nomi. Di un'epoca. Il loro primo album si chiamava Portobello, questo è il loro secondo, chiaro. Campagnata praticamente. Quattro giorni insieme a far l'amore come pazzi, a cucinarci gli spaghetti e non ci annoiavamo mai. Sempre uniti insieme noi ci amavamo allegramente ed alla fine di ogni volta ci piaceva un po' di più. Quattro giorni insieme, forse non eri intelligente, ma c'era in ogni tua espressione quell'entusiasmo che tira su. Sempre chiusi a chiave, stavi infondendomi la voglia di prender tu come viene e di non chiedersi mai perché. Loi e Alto Mare, un disco che viene dall'altrove praticamente, si chiamava chiaro, un secondo album di parecchio tempo fa, e a quell'epoca c'era anche quest'altro signore che ogni tanto così pensava di raccontarcela in qualche modo, no? Di avvertirci, di avvisarci, ma noi sordi, sempre più sordi. Arrivano i buoni, arrivano, finalmente hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. (Susurra) finalmente una nuova era comincerà. Quanti sbagli, quanti errori, quante guerre e distruzioni, ma finalmente una nuova era comincerà. Senza servi né padroni, senza guardie d'assassini, d'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità. Già fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminare. Ma chi l'avrebbe mai detto che erano così tanti i cattivi da eliminare? Sì, adesso i buoni hanno fatto una guerra contro i cattivi, però hanno assicurato che è l'ultima guerra che si farà. Edoardo Bennato ci cantava Arrivano i buoni, perché comunque ci avvisava che stava arrivando qualcuno che insomma era meglio di noi e che in quel modo avrebbe messo a posto le cose. Siccome la signora Patti Smith è piaciuta molto al nostro Riccardo, che è qui in studio con noi in questo momento, e ci fa molto piacere avere qualcuno che ci sorride, ci guarda, ci approva o ci disapprova a secondo. Cioè, avere qualcuno di fronte è importante, perché sembra avere il pubblico, no? Quando tu sei qui in radio. Ma sta canzone però, White Rabbit, era proprio necessaria adesso? No, secondo me no, secondo me no, no, no, sai che te dico? Io la cambio. Oh, mi serviva un'apertura, ma quella andava sempre più al buio. No, no, io ho bisogno di uscire fuori all'aperto. Ah, China Crisis. China Crisis da un album bellissimo. Flown Perfect. You really don't need China Crisis e Straight-O Character. E siamo in una zona molto difficile per la stanza del nonno, nel senso che è un momento in cui in qualche modo dovremmo cominciare a raccogliere i fogli, le cose, perché oggi è stata una giornata in cui, diciamo, la scaletta ha veramente pescato come in quei cestelli dove si va con la piccola gru, no? Buttando via 100 lire per volta si va a pescare il pupazzetto che non trovi mai. Dunque, a un certo punto oggi nella mia scaletta era comparso un brano che, siccome ero partito con quest'idea di parlare d'amore, di canzoni d'amore, poi ho cambiato completamente questa idea perché, come vi dicevo, le canzoni poi alla fine erano un po' troppo uguali, insomma il sound non mi piaceva più. Per cui a un certo punto ho pensato che alcune cose che provenienti da come posso dire, dalle commedie musicali si sono sentite sempre molto poco in radio, no? Per esempio oggi abbiamo sentito brani da Rugantino, da Ciao Rudy, e insomma in qualche modo abbiamo fatto delle scoperte e abbiamo riascoltato delle cose che non riascoltavamo da un sacco di tempo. E una cosa che forse adesso si ascolta molto di più, però un tempo non si poteva neanche mandare in onda perché era troppo lunga, durava 7 minuti e poi insomma era esplicita e quindi c'era una sorta di censura su questa canzone, no? E comunque parlava di così, di un incontro come quella di prima degli Avion Travel, no? Aria di te. E il signore in questione lo conosciamo bene e ci piace, e quindi... Poi questo è un messaggio veramente favoloso di questo brano. Sono tornati presenti il basso, l'organo, la seconda chitarra, che una volta era stato tutto appiattito, era diventato un brano qualsiasi, e adesso invece è una cavalcata dal vivo straordinaria. E questo perché l'ho messo? Anche per dedicare, per fare il buon compleanno al batterista Franz Di Cioccio, che ha fatto 70 anni o giù di lì. Io sto già tremando d'amore, lei viene qui questa sera, solo una questione di ore, spero di non morire vedendola entrare, potremo restare soli. Attenzione al basso, tra poco entra. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco. Ecco Franz. Il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, ma un dubbio mi assale. Ne verrà o non verrà? Lei verrà o non verrà? Non verrà, non verrà, non verrà, non verrà, non verrà, non verrà, non verrà, non verrà, Dio mio no, Dio mio no, dimmi solo che verrà, Dio mio no, dimmi solo che verrà, Dio mio no. Le voglio sfiorare i capelli, ecco la terza chitarra, col respiro del mio cuore. Sarà Alberto Radius o Francone Mussida? Con sguardi leggeri, con frasi d'amore, d'amore, d'amore, d'amore, d'amore. il campanello grida ti amo e Baldan apre e stringo già la sua mano e fa il campanello e poi dopo mentre cammina, mentre canta lo guarda, mangia di gusto la carne, il caviale ed il resto. Sentite, tutte queste cose sono partitura, partitura in Lucio Battisti. Non so giochetti che urli, fai, lo chiami, guardi, stanno suonando dal vivo tutti insieme. Al tamburello Flavio Premoli. Dopo aver mangiato la frutta, si alza e chiede dove c'è il letto, poi scompare dietro la porta, la sento, mi chiama, la vedo in pigiama e lei si avvicina, vicina, vicina, vicina. Grande jam session. Lucio Battisti. Francone Mussida. Alberto Radius. Franz Di Cioccio, auguri. Ecco Baldan, Baldan, chiama Baldan. Che faccio lui? Vabbè, suono, vado. Vai con Lemon. Giorgio Piazza al basso. Tutta la PFM. Un attimo di pausa perché questa è una cavalcata. Qui invece il signor Lucio Battisti dirige l'orchestra, suona naturalmente. Il titolo è lunghissimo, come si usava all'epoca durante i film anche di Lina Wertmüller. In un disco non conosciuto da molti che si chiama Amore e non amore. Questo è amore. Quello di prima è non amore. Almeno secondo il Mogollo. Thank you. Anche qui il gruppo era praticamente lo stesso. C'era sempre Franz Di Cioccio alla batteria, Lucio Battisti, tutta la PFM. Dopo il notiziario siamo ancora qui con la stanza del nonno per gli ultimi minuti. E questo qui è il nostro amico Mick Jagger. Ancora praticamente in scena. Rolling Stones, un gruppo straordinario con questo nuovissimo album uscito da pochissimo. Il brano si chiama Depending on You. Un attimo carichi, eh? Rolling Stones e poi dopo i Rolling Stones. Un brano che si chiama Cibo per l'anima, Food for Soul. We'll be right back. La stanza del nonno questa sera è finita qui, ma ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 18, dalle 18 alle 20, con due notiziari all'interno e con chissà quale musica. E intanto i programmi di Radio Centro Idea continuano. Bellissimo programma di Ronnie con racconti. Buon ascolto alle ore 20, eh? Lo trovate alle ore 20 il lunedì. O sempre alle ore 20, solo il lunedì. Ok.